due. No, forse non è della Midland, no? Non me la metto, va, a che io faccio yoga, un 747 per dire a Midland. Allora è Midland di Subburu, Midland. Ma qui sta, allora, un 747, oh, manco un Westwood. Lascia vedere se è. Vediamo se la scappo, va. Marisa. Allora, metto una corrispondenza. Quindi, non c'è ne. E c'è, vedi, sono degli aglobe, come già mi dici. No, non riesco a scappare. No, della GTA. Ah, CTE, sì, CTE. Fate le robe del blu. Fate vedere quante quanta avvate, guardate quante quanta avvate, ma la sta così. Ah, ve ne è uno. Ve ne è uno, due, tre, ma dopo una pesceria, mi sono sentito, che è introvabile però, pagisco io. È introvabile, quindi sento io. E ci sono qua. Ma cosa è introvabile? Che sono tutti pure i miei letto, raga, ma il nuovo vendente. Sì, a nuovo mi dice la gente, quanto mi però è probabile, perché tu vieni se non te la gente batti, e tu non se ne sa fare di tutto, come già ha questa volta. Ah. Oh yeah, non ce n'è, non ce n'è. Ah, c'ha perdere. È probabile, carità. Mi dice, la gente ti dico, regalatesti per il finale. Tu pensa, il 747, che meglio di visto, costa 60 euro per il trovato. Ma niente, andiamo il tè, sono la seconda e stanno vecchia, io mi conosco la pistola, ti regalatesti per il finale. Costa di più, 747 costa 78 euro. Ma ci sono, dove l'ho trovato io, ho visto 66 euro, dai, l'ho visto, senza spedizione. Io per dire ne ho venduto uno a una persona 40 euro. Cazzo, ma gliel'hai venduto come usato? Certo, usato, lo usavo in macchina, poi l'ho tolto perché la macchina l'ho venduta e non me ne facevo più nulla. Io l'ho venduto già a 40 euro. Quindi, ma che si può vendere 40 euro? E costa 78, cioè che difficile. E questo qua aveva comprato tutta di questa roba, poi è deceduto e i fratelli me l'hanno regalato. Ma 40 euro il prezzo suo? Sì, anch'io l'ho venduto a Antonio, perché ne ho un altro, capito? Poi c'ho il B300, c'ho l'RMI Italia, ne ho lineari. Va bene. Ah, Vanni, quindi lo vogliamo nel regalo? Claudio! Oh. Ciao, ma dai un controllo per favore. Quasi 9 più 10, 9 e 5 abbondante. Bene, guarda adesso, 1, 2, 3, prova, dimmi se ha cambiato anche la radio. Sì, sul più del 30, no, la radio va bene, non l'ha smorzata, va bene. Vabbè, quindi ha migliorato, dai. Sì, alla grande, sul più del 30, sì, 9 e 20 praticamente, dai. Da 9,5 a 9 più 20, vai, Franco, sì. Dai, no, sto provando un altro alimentatore, uno lineretto, dai. C'è un leggero rumore di alternata sotto, però va bene, dai. Io, tieni conto, sono col baracchino, quindi, però è abbastanza preciso questo polmar, Sì, sul più del 30, così, capito? Mentre prima eri sul più del 9, 9 più 5. Va bene, dai, un po' di alternata già lo farà, come il 48 sono comunque. Va bene, io sono a prova, che smonto tutto, grazie, ciao, a più tardi. Ciao anche a Gianni, se c'è. Ciao, ci sentiamo. Ciao Tino, ciao, ben ascoltato, dai, ok. Continuate, Fra, riprendi tu e fai girare, dai, che rimango qua in ascolto, io le sto mettendo a posto la roba che ho usato stamattina. ci vediamo, va? Ehi, ciao Tino. No, mi stavo parlando un attimino io perché stavo cercando lo Smith che mi ha fatto perdere Tino. Che cazzo c'era 9 più 30 quasi qua, immaginati da te. E poi ci vai dietro, lo dicendo lo Smith. Allora Silvani. Ehi, ciao Tino. Comunque Rucci, guarda. Non va partito, va, il 3007, per 13 e basta. Ah, ciao, capito. No, dopo le do del vento, ma di un punto. Ma che danni. Sì, vabbè. Non si capisce più niente. Un attimo di quel Rex, va. Ehi, già. Non lo so, guarda che dice, guarda che dice, lo posso blubare. Magari lo 740. Sì, 747, che sono un 37 non la via che si sbattono. Ma infatti il disorganizzazione monta due binari, che so, va, funzionare, 2 6 3 0 7, capito? Andare fino a 50 MHz e niente, non ci posso dare, vabbè, in AM, vabbè, in AM 27 MHz, 12 corso di alimentazione, volto, guadagni fa 9 di bis, fresco di UCC, 12 di roba, e tutto, ma comunque, se va per via, non ci sono del tempo. Allora, accoppiati, gatto bacino, che avete finito, 30 parte massimo, gruppo, 3 minuti di gruppo. Ecco, ma che c'era di fare, una c'era di fare un valvolare di qua, avete gatto di tasso in effetti. Adesso me la zona, ma sta ponendo un bilde, non lo può fare dentro di che tu visi, un lugar covettizio, capito? Ma non ha giocato covettizio io. Ma problema, capito? Non vedo, lo mettiamo. Mezza che ti ho visto 650, 24 volte, bravo. Ho sempre fatto un bottezza su di una emera. Sì, ma è a 24, va bene. L'alimentatore può andare pure a 24. Ma non c'è via nulla, Vanni. Io ho le RM Italy così. Ma cosa? A 24? Oh no, a 12, però più o meno da quella potenza. Ma c'è un po'. Quando vai il 500 watt, insomma, sono più che sufficienti. 200 watt in AM vanno più che bene. Questo, ti ho visto, monta l'MRS 422 a 28 volt addirittura. Un attimo. Oh, mi lo faccio un attimo. Sì, Lucia, che ti ascolto, ma stavo parlando a sorso. Ciao, Lucia. Ah, io se non sentivo niente, pardon. Ehi, che nome non intende a Franco, la torre di controllo di Soshu. Negativo, sono appena uscito dalle gallerie. Ah, sei appena uscito dalle gallerie, arrivare lì è un casino. Sì, sì, Vanni, io ho l'RM Italy, quello a 220 là sopra, capito, però HF, non 030. No, è che lo bongo i 27, già me ne voglio. A farò, già far vedere che sei forte, ma finiamola. Ma l'avevi dato le pelle, sì. No, dentro l'armadio non si tocca quello. Ah, capito. Vabbè, se c'è qualcuno che ce l'ha ed ha le valvole andate, vediamo. E quale? Come hai matto tu? C'è la valvola nuova 9. Cazzo, gli hai fasciato l'MN2000, mi sono dimenticato il commutaggio, frusciato e si è alzato più di 1000. Ma stai scherzando, nuovo. Quello nuovo, Vanni, perché è un ricordo, lo sai, no? Cosa è successo per quel lineare, quindi è un ricordo, ma lo tengo a vita. Ho detto, se ne sai qualcuno che ha le valvole rotte, o che lo vende o che vuole acquistare le valvole, compreso. Ah, è vero che tu c'hai ancora le valvole. Sì, c'hai ancora le valvole tu di quello, no? Sì, ne avevo 4. Ehi, vabbè. Ti faccio sapere. Luciano, lo senti? Neanche a Vanni lo senti? No, negativo. Saluto a tutti, ma non li sento. Vabbè, vi saluto Luciano Catramina, dai, che è in transito qua, roba gallerie, dopo le gallerie, capito? Vi saluto a tutti comunque. Chissù, guardi, la giustizia una notte, così tanto per fare due fesserie, no? Per giocare. Treviso c'è Gavino, non so se l'hai mai sentito, che abita attaccato a Gianni doppio rum. Cazzo, là c'è incollato lo Smith, la Giovanni non intende manca Gianni. Ma che c'è buon papà, beh, qua dovrebbe dare 600 watt in AM e 1200 in banda. Sì, sul picco massimo di modulazione, sul parlato 600, se fischiano è anche 650-700. E in AM sì, più di 1000. Via la grande, ti ho detto bruciato, rotto lo strumento dell'MN2000. dell'MN2000, perché mi sono dimenticato che era in scala 1000, ha già bruciato e si è incollato, ha fatto tum tum, ha sceccato a terra. Va bene, bisogna stare attenti, grazie. Quando, insomma, quando usi, e poi ti ricordo sempre una cosa, che bisogna comunque, l'unica cosa che dovresti stare attento è che l'accollo deve fare con poca potenza, capito? Poi non bruciare tutto il danneggiato. E sempre, ma poi io vanniccio, quando usavo quello, adesso non lo sto usando, ma quando lo uso io metto lo strumento esterno, capito? Faccio l'accordo basso con lo strumento esterno, non mi fido dello strumento suo, capito? C'è sempre differenza, poi me l'avevi già spiegato. No, è sempre dentro l'armadio, ogni tanto lo tolgo, lo accendo, faccio scaldare le valvole, poi tutto rappuccio. E invece l'altra notte da un bel, l'ho attaccato al K, esce Maria a gara, ragazzi. Ci vuoi dire, una bestiolina, poi nuova. Però ogni tanto mette l'accendo, perché i condensatori prima o poi, capito, se non lo usi. Infatti sto facendo così. Mi è rimasto solo quello, gli altri ho dato tutto, capito? Va bene, Luciano, via avanti. Ehi, adesso poc'anzi l'ho sentito, Vannino, dai, ciao Vannino, ben ascoltato. E in direzione casa siamo, qua, dai, già è ora. Sì, ci hai travagliato qua oggi, dai. No, io ti ascolto benissimo, vabbè, sono col baracchino piccolo, però ti ascolto magnificamente bene, Luciano, non c'è problema. Grappa Rogero, e a te ti ascolto anche dal parcheggio di casa, alla grande. Tu non ascolterai me, ma io a te ascolto. Vabbè, siamo in borsa in montagna, Luciano, te posso fare nulla io. Oh, assolutamente, è un piacere sentirti ogni tanto, Claudio. Sì, poco sto modulando questo periodo, Luciano, sono un po' impegnato, poi la verità non sono molto motivato, non a giocare, a bordi, eccetera. Adesso perché mi trovavo qua che stavo sistemando la radio a un amico, gliel'ho consegnata poco fa, e quindi ho riattaccato la mia, dai, questo baracco degli anni 70. Vecchio barracchino, come dice qualcuno. Va bene, Luciano, prima che ti perdo ti saluto, intanto io sto uscendo, quindi saluto Luciano, Catramina, ciao Franco, Gianni e Vannino, vi saluto tutti, alle prossime, ciao Luciano. Gappa gappa, io già ti ho sentito, dai, un saluto a tutti da Luciano Catramina, ciao. Ciao, che mi stato anche io, va. Ciao Vanni, ciao, buona serata, ciao a tutti. C'è qualcuno su 10? Hola? Hola? Che è avanti? Avanti il fischio. Adesso con quello stai uscendo. Ehi, ma c'è la differenza tra uno e l'altro, manca il paragone. No, l'altro è molto meglio. Come radio è molto meglio. Sì, ma come radio questo qui non avevano mai dato grosse. Bisogna. Per far uscire bene bisogna elaborare. E non solo, da dentro bisogna aumentare le RC, eccetera, eccetera. Sì, per fare question notturni va bene così. No, per niente. Torino era bucato Bursamani, perciò cosa ti posso dire? Erano le 11 e cosa? Cosa stai facendo? E sono cappuggiato all'ulito. ma deve essere che poi, capito, si è riposato. Perché lui esce presto, è andato da Bricco, mi pare. Ah, sì! ce l'ho a 7, mi pare, a 7 poli e poi a 4, a seno e sereno. Perché quello lì si è il pollice, ma posso controllare, ma magari non mi ricordo, ce l'ho qualcuno, comunque vediamo. Non lo so, perché io quando vado le compro di birsi, capito? Quando mi servono lo dice io. Che microfono è? Ah, l'M93 ci devi mettere una capsula di quelle. Di quelle verdi esce una bomba. Quelle di telefono, se tu abusi una capsula di telefono di quelli, quei telefoni bianchi e Sirio, te li ricordi? Esatto, Giulio mi pare che ne aveva quattro e deve dare una a me e una a tutti. Non lo so io, a me noi ce l'ha promessa, però non so se magari due le porterete, non lo so. No, ma una voce tranquilla, si sente che è una modulazione normale, dai, capito? Quello c'è l'attacco a sì, uscire. E tu già mi sai fare gli attacchi, si devi spingere da Luca. Me lo immaginavo. Comunque tutto male che vado ce l'avrà Fusaro, se non ce l'ho io Fusaro ce li ha. 2,50€, te lo dico già. Cazzo, non c'è 2,50€. C'è per uscire meglio. Non è l'una. Ti conviene farlo un fuori con l'apparecchio, tanto ci vuole microfono amplificato, questo, quell'altro, spinotto. Ma scalda, perché il difetto di quegli apparecchi, te lo spiego, scalda un bel. E l'alimentatore va in tilt, dopo invece che 12 mosse ne dà 20 e ti brucia l'impianto. Così ci ha detto un tecnico. No, sui forum l'abbiamo letto. Sui forum. Ci sono tante lettere di tante persone che l'hanno dato tutto perché scaldava, aveva questi problemi. L'hanno dato per quello. Capito. Bisogna fare delle modifiche, cambiare l'alimentatore e poi se non vuoi che esca forte ci sono un po' di modifiche da fare. Vabbè, chi lo sa fare non lo rovina di certo, chi lo sa fare lo fa. Certo, non è roba da fare in due, è roba. E deve fare un tecnico, no? Forse perché stavo guardando il telefono e c'avevo la musica, capito? Ah, mi sentivo basso basso, ti ho risposto anche, basso basso basso. Luia, così non bruciami l'apparecchio, non ti conviene usare quell'antenna e fare rovinare gli apparecchi, ti conviene aspettare e usarli con l'antenna sua, ma facendotela. Ma la canna ce l'hai? Da 7 metri? E quanto è piccola? Ci vuole almeno di 7 metri e mezzo, mi pare che sia. Ah, ma la mia macchina pare così in uscita. Ma te le belle già che le stai facendo, grazie. Boh. Te la metti la fai direttamente 5 ottavi, arrivi da tutte le parti, che tu quarto dove ne arrivi, le rocchi a Santubri. Ma cosa ti direi? Ma se tu una cosa la fai direttamente come si deve, o no? O sbaglio? E la fai direttamente da... vuole da 8 metri, la cara, apri da 8 metri, costa 15 euro, non cosa che sia tanto, vai da letta te la prendi, 15 euro, cara la pesca, quanto? Vabbè, non lo so, vedi tu, io te lo sto dicendo perché per uscire come esci adesso è inutile che ti lavai, ti compri prenderti direttamente una canna giusta, dai, per uscire meglio. Così ti hanno detto, va bene. La quale mi fa vita. A mio occhio deve venire a fidarti con la persona. E perché? Mago, già io mi pare di non utilizzare. Oh già! Ehi! Oh, cazzo, no, non funziona più il microfono della President. Stavo chiamando la Marina stasera, non so se sentivi un beep, ero io. No, non ci ho fatto caso. Come non ti funziona? Com'è possibile? Cazzo adesso, posso funzionare, cosa adesso? Non sarà la capsula. Adesso lo controllo. Se è il PTT ce l'ho qualche uno io. Ce l'ho qualcuno. C'è problema. E se ce l'hai già, sì. Io ce l'ho, però vanno bene, sono troppo grandi. Io c'ho quello del Proxer, ce l'ho diversi, dai. Guarda che dovrebbe essere, ah sì, piedini, aspetta il controllo. Ma però verifica prima se la capsula lunga, che è più facile, devi salvi quei due fili e ne metti un'altra di capsula a vedere se è quella. Dunque il BTT è quella a 6. A 6? Aspetta un secondo. Brecco, brecco, brecco. C'è qualcuno sul canale 10? Cosa c'è? Cosa c'è? Sto provando dei vecchi apparecchi, ho stazione base. Ah, ho capito. Beh, sta andando bene? Sì, sì, benissimo. Capo, va bene, sto usando il suo palmare, adesso mi devo adattare un microfono da tavolo. Ok, prova, prova. Comunque, grazie Luca. Niente, figurati, sono qua che stavo controllando il microfono. Gianni, ci sei? Gianni, ci sei? Oh! Sto uscendo, Riccardino, ci sei? Ma sì, sì, uscendo sto. Oh. No, no, sì, Pierini è PTT già. Ma sto uscendo. Ma sto uscendo, mi senti in radio? Prova, prova, mi senti? Non sono attaccato, sono dall'altra parte. Ah. Non c'è qualcuno? Già stai uscendo, Lu, stai uscendo fortissimo. Ah, ok, ciao Marco, vabbè. Questo è un telefono. Marco, ci sei? Ehi, allo, dimmi tutto. Penso che ci fosse bruciato il baracchino, cioè stavo chiamando stasera alla 25 e non mi sta funzionando il microfono, quello che mi ha dato io, quel tipo di microfono alla Presidente, non sta andando. L'ho misurato la capsula, ma non mi segna niente. Beh, non segna un cavolo. Capsula condensatore oppure dinamica, 500 ohm in teoria? Sì, dinamica, dinamica, sì, sì. Quelle che sono alte, boh, 2-3 centimetri, 4. Non saprei, Lu, ma tu devi cambiare capsula, cioè la trovi volendo equivalente oppure devi cambiare mic? No, la capsula so, mi va bene, se c'è qualcuno che ce l'ha, dalla, poi a poco ci sono problemi. Certo, noi che abbiamo quanto questo microfono. No, io volevo prendermi un DMC 507 Lafayette, solo che spendere cioè 13 euro il microfono e magari 7, 8, 9 euro di spedizione non va assolutamente no. Oh, quanta smesso di funzionare, porca paletta. A meno che non vada da GBC a prendere uno di quelli Midland dei microfoni, però boh, me lo faccio pagare quanto quello in, online più la spedizione, siamo sempre lì. Quelli Midland sa costano 13 euro a GBC. Aspetta, mi sembra di vedere un segnale bassissimo, filo QRM. Chi c'è qua? No, no, forse propagazione ma bassa. Dimmi Lu, cosa mi hai chiesto? Ho detto che lì a GBC me l'ho detto, quello della Midland costa 13 euro, mi pare, o 15 euro. Non so se hai letto il giornale, ma quella la via tua, poco più avanti c'è quel bar, la via in casa tua, lì, è morto un corriere. Poco più avanti? Ah, io l'ho letto sulla Nuova Sardegna che è morto uno del corriere, uno dell'SDA, ma qua vicino addirittura. Sì, sì, devo dire, c'è solo il campanello, dice che si è accasciato, ho fatto fulminante. Brecco, brecco. Ehi, ciao Ricca, adesso ti rilancio. Ma proprio qua è successo, porca miseria. Oppure che sia il mio, cioè il corriere che veniva qua, che era abbastanza affidabile come corriere, non era ladrone né nulla. Vabbè, porca miseria. Ogni tanto vai Ricca. Ok, grazie Marco, saluto a tutti, sono entrato per un controllo e volevo chiedere anche se c'è ancora Luca, perché prima mi aveva sentito con il palmare e adesso sto usando un microfono da tavolo amplificato. Sì, che ti sento, a voglia, forte e chiaro, dai. Dai, che chiudemi, stacco questo, sono ero un po' preoccupato, ho un così, butto in bianco, si è bruciato il baracchino, ma il baracchino va bene, dai, questo qua è il Typhoon. Comunque Marco, questo spinge di più, vero, del femminile, no, proprio di radio. secondo me è alto, anche va, ma secondo me sa 5. Mi confermi che questo qua è più forte? Aspetta qua l'altro, no? E come hai abbassato, diciamo, più udibile e riassordante poc'anzi, prima di abbassare. Ricca, sì, la modulazione è buona. Buona. Cioè io controlli li do semplici, non buona. Cosa vuoi dire? Fai un passaggio lungo. Ok, va bene, grazie Marco. Sì, no, perché questa radio da un po' che non la usavo e non riuscivo mai ad adattare un microfono a tavolo. E ho provato alla prima con un microfono che non ci ho mai pensato ad adattarglielo e non ho dovuto neanche cablarlo, era giusto così, non è mai stato toccato neanche, non è neanche mai stato toccato. Marco. Ehi, per quello è che va bene, Riccardo, dimmi Luca. Questo è il 3009, la differenza c'è dall'altro. Rifallo? Questo qua è il 3009, è la 1, 2, 3, non so, l'altro ho trovato ricordi la modulazione, sarà più forte. Ma prima hai abbassato anche, hai abbassato. Allora, all'inizio eri assordante, poi hai abbassato poco prima di chiudere, e questo è abbastanza assordante. Qua adesso è come la prima, a 8, ora un po', 1, 2, 3, prova a radio. Sì, siamo lì, sordo ti fa comunque, dai, a vicinanza ti fa sordo. Ah, ok, dato, l'ho abbassato. Niente, manchino, non va nulla, mi devo adattare un microfono, ma non una giugana. Manco, bassogno. Eia. A meno che non me ne ordini due delle DMC507, poi si userà a scopi futuri, per ammortizzare le spese di spedizione, più che altro. Mamma mia, mi sono appesantito a pranzo, Pucci, che schifo, mi sta venendo anche il vomito. Io continuo il mio lavoro, ci sentiamo dopo, ciao Luca e ciao Marco. Eia. Ciao Riccardo, sì, quello è sia bene, invece ieri sentivo ogni tanto qualche rumorino, una cosa del genere, un po' poi un po' di alternata, rumori strani miei ieri, vabbè oggi è perfetto. Ti ringrazio Marco, come detto ci sentiamo più tardi. Eia, Luca, ma questa è propagazione? Ma non sento niente Marco, non intendo nulla. È spagnolo mi sembra, del solito spagnolo, va bene dai, sto facendo qua cose elettroniche, dai sentiamolo. Se sei lì tanto ti faccio una chiamata dopo, là, per vedere se funziona il microfono. Ehi, ciao a tutti, ciao. Ciao. Luca, sei tu. Ho dato un paio di colpi, ma non funziona. Adesso ti ho dato questo qua, va. Ma eri tu un istante fa, due passaggi a vuoto, senza audio. Sì, ero io. Già è così la cosa. Cosa mi sta dicendo? GBC ce l'ha comunque quelli di 4190 Midland, ce li ha? Sì. Vediamo. No, perché stavo spiegando a Gianni, chi era Natalino, non mi ricordo, che il Lafayette è più aperto, c'è un guscio della capsula più aperto, con fori enormi, e la griglia anteriore c'è un'apertura molto più grande per far entrare l'audio, mi sa che è più aperta come modulazione. Con lo Midland te la fa un po' più con toni bassi, meno spinta, va bene, vediamo cosa c'è, dai. Marco? Sì? Sto uscendo? Sì, come una modulazione normale. Va bene come radio, sì, lo fa schifo. No, una modulazione normale come potrebbe essere questa qui. Ok, dai, gli ha dato questo qua, pazienza, l'altro si è procurato la capsula, bene, adesso ho pazienza. Ok, va bene, ciao. Ciao Marco, tanto io non farò mai contarti, mi basta alle 4, ciao. Ehi, ciao, sentiamo, caspita alle 4, dove devi andare? A Roma? Facciamo un po' di gioco, bello. Tu papa con tu eco y la vitorilla. Va bien. La papilla está en un radio bueno. Siete parlando, però non stiate facendo il radio. Chi è? È il Riccardino che non esce. No, è Natalino. Ciao, ciao. Ma tu lo sai già che non esce, come fa a sapere che è lui? Perché ho sentito una vocina, la vocina sua, bassa, bassa, bassa. C'ha il microfono difettoso, evidentemente. I microfoni. Ricca, come mai? Stavi andando così bene? Quant'è? Un'oretta fa? Oggi c'è silenzio in radio, non è entrato anche Roberto. E infatti neanche io ho sentito nessuno, era in ascolto. Ehi, intanto io adesso ho un filmaccio pronto da guardare, mamma mia che roba brutta. Roba che parla della vita e della morte. Abbastanza angosciante, mi. Ottimo se sei giù di morale, mi. Ehi, figurati, chissà di quanti chili sono dimagrito io per la depressione che mi si sta pigliando, mi si sta mangiando proprio, boh. Dobbiamo andare al più presto a Mignotte, perdonami la parola Ricca, se sei all'ascolto. All'ascolto. Dillomi. No, come ho nominato quelle signorine è uscito anche di radio, mi. Si è uscito di radio adesso. Microfono a zero, ci credo. Si è allucito Riccardino. Come ha sentito queste cose? Ti ho detto l'attacco lineare e tre. Sì, attacca, attacca. Si è eccitato il microfono. A casa e trovi i vigili del fuoco ancora spegnendo il tuo 39. Come? Ricca, mi è sembrato di sentire però che, cioè, appena inizi il passaggio non c'è l'audio e compare gradualmente da mezzo secondo a un secondo dopo. Fammi un passaggio, cioè, appena premi parla, prova. Hai ragione, sì, devo aspettare un secondo, me l'ho detto, intanto me lo dimentico, perché deve scattare il relè, mi hanno detto, non ho capito, il relè hanno detto così, e quindi ci metto un secondo, io come clicco parlo, mi piace tutti ti parlo, invece devo aspettare un secondo, me lo dimentico sempre. Ah, è un problemino della radio, diciamo, non del microfono, c'è un po' di ritardo nella modulazione, dai. Invece io avevo avuto un baracchino vintage tanti anni fa, pensa, era vintage anche nell'85, figurati, che aveva un ritardo nella portante eccessivo, cioè premevi e la portante saliva dopo 2 secondi, quindi era quasi inutilizzabile. Mi dimentico sempre, devo aspettare un secondo, mi hanno detto devo aspettare il relè, se no mi taglio la prima parola. Eia. Capita, capita. Ehi Natali, comunque non ti buttare giù, dai. Tanto siamo nella stessa barca tutti me. Anch'io volevo fare mari e monti. Invece alla fine sto sempre facendo commissioni, la spesa, andare posto a pagare roba, cioè alla fine non è cambiato nulla. Adesso mi tocca tribolare col dentista di nuovo, il giovedì ci vuole vedere, mamma mia. Aspetta che squilla il telefono, un attimino, riprendete voi. sei triste. E allora Riccardi, cosa mi racconti? Cosa ti racconto? Senta cose, oggi stavo sistemando, ho trovato un microfono per la stazione base, la prima che ho avuto, lo stalker. Praticamente prima avevo solo il palmare e non riuscivo ad adattarne uno a tavolo, e adesso gli ho adattato l'MB+5, capito? E niente, adesso sta andando bene, dopo ve la posso sentire. Sai quando arriva anche Roberto, che non voglio attaccarla 10.000 volte. Ok. Oh yeah. Va bene. Successo oggi che sei demoralizzato? Non è solo oggi che sono demoralizzato parecchio tempo, perché c'è gente vigliacca che non ha il coraggio di venirmi a dire in faccia le cose, capito? Ma vabbè, che si mette a registrare quello che io dico, e allora, ma per me possono fare quello che voglio. Tanto non me ne frega nulla. Salutamela Riccardo. Già ti sento. Aspetta. Non si è capito. Ciao Riccardino. Non si è capito nulla perché non hai aspettato il secondo prima di parlare. Scusate, colpa mia, sì, stavo salutando Concetta, ciao Concetta. Ciao Riccardino. Ma perché non ce lo butti quel baracchino, ne metti un altro che vada bene? Controllo il mio baracchino. Quello lì, a buttare via quello, che è quello che ha il difetto, e ne metti uno buono. Ne metti buoni, lo sto provando perché mi piace molto questo baracchino. E comunque, già lo so, forse il problema è del microfono, perché se attacco l'altro microfono, l'altro da tavolo, penso che non lo faccia lo scatto. Prova a attaccarglielo e vediamo un po' se lo fa. Boh. Poi non stai uscendo neanche bene di radio, non è chiara. Va, aspetta, vado a prendere l'altro microfono. Ok. Attenzione Natalino, se ascolti al 21 che chiama. E questa è un'altra cosa. Ah, questa è un'altra cosa, quindi questo come cosa, come ti sembra? Con questo esci chiaro di radio e non ti fa quel difetto lì. Va bene. E quel microfono difettoso, quello che stavi usando poco fa. Allora posso lasciare questo lo uso, l'altro lo uso quando necessità che non voglio entrare dentro casa a prenderlo e uso questo. Adesso però se mi ci va bene, se c'è qualcun altro che può dare un parere. E aspetta, tanto Marco è al telefono, quando chiude la telefonata già entra e glielo chiedi a vedere se ti ascolta meglio. Nathalie, e beh, oggi come ti senti? A me stavi dicendo, stavo parlando con la 50. A te stavo parlando, ti stavo chiedendo come ti senti oggi? Sì, così sono. E il mal di schiena ancora? No, il mal di schiena non ce l'ho oggi. Già sto meglio, dai. Di testa è che non sto bene. Ebbene, sente male. Milomic è arrivato, dammi un parere su questo microfono, cosa ne pensi? Ciao Robè, comunque scusa, non ti ho salutato. Ma sinceramente non è che mi piace molto, che cos'è questo? Microfono che... aspetta che te lo scrivo. Ciao Natalia comunque. Ciao Robè. No, papà, ho appena acceso, ho sentito a voi due. E c'è anche Marco Condor che sta telefonando. Cosa ti volevo dire? Questo non gli fa quel minuto che deve aspettare prima di parlare, cioè quel secondo che deve aspettare prima di parlare. Non gli fa quel difetto ed è più chiara pure la radio. La radio di quell'altro era l'Oscar. Ok. Allora, Riccardino Alfa 21, 22 o 23. Aspetta che stiamo mettendo i bolide dentro. Vieni. che cos'è tutto questo macello? Non si capisce niente. La macchina di Babbo l'ha messa in garage. No, non capivo quello che stavo dicendo, tutto il rumore. Babbo ha messo la macchina dentro il garage e l'ha messa accanto a me e quindi c'era tutto il rumore del motore. Ah, per quello. Comunque questo va meglio di quello che aveva prima. Perché quello è difettoso, quel microfono. Gli provoca che se non aspetta un secondo gli taglia la parola. Sì, me ne sono accorto anche io. Ma lui stava uscendo bene con quel Tanner ieri, che cos'era? Il Tanner, non mi ricordo mai il nome, cavolo. Tanner Thunder, quello che avevo. Thunder 500, quello era una bellissima radio, usciva veramente bene ieri. Poi abbiamo fatto le regolazioni e usciva una bomba. Poi anche con quell'altro MB più 5 usciva bene. Ti faccio sentire l'altra radio, devi fare anche di quell'altra che ho qua vicino. Questa non mi piace però, è tutta quanta in passata. Se o stai parlando troppo vicino, ritardi, perché ti sento tutto come che c'hai la bocca davanti, cioè la mano davanti alla bocca. Non ho nessuna mano davanti alla bocca comunque, sto parlando neanche vicino a 30 cm dal microfono, e allora quindi è il problema della radio. Un attimino, scusate al telefono. Ehi, dimmi Marco. Ehi, era al telefono con mia zia, che poi ci abbiamo da fare giovedì. Mamma mia, mamma di Turchi, credo che avesse chiuso. Comunque dai, adesso tanto mi inizia il film e io scappo. Ok, chi è entrato? Qualcun altro? Roberto è entrato, ma l'hanno telefonato ed è al telefono. E c'è sempre Riccardino. Vabbè dai, ci sentiamo alle prossime, anch'io me ne passo in QRT. Ciao, ciao. Marcolino. Ok, ciao a tutti, dai, io mi attacco alla televisione. Ciao a tutti, ciao. Riccomi. Attenzione, binario 10, ci ascolti, l'isola della Sardegna, costiamo. E quale isola sei? La Maddalena o la Sinara? No, la Sinara. Comunque, cosa ti sembra questa radio, Roberto? Questa è bella, questa è bellissima. Questo cos'è? Il Tanner? No, questo è la stazione base con un MB più 5. Questa è bellissima, chiara e al massimo sei come regolazione del coso, del guadagno, del mic gain. No, il mic gain di questo microfono ce l'ho a 5. Oh, va benissimo, teoricamente potresti alzare un pochettino, ma sta andando benissimo. L'altra la sentivo male, Riccardo. Non so cosa dirti. Comunque questa mi sta dicendo che sta andando bene. Se mi dà un'opinione anche Natale, visto che lui è un intenditore. Natale, ieri notte, Riccardo. Cosa? Ieri notte quando sono andato a dormire mi ho portato quella radiolina piccolina e vi stavo ascoltando. Lo sai chi è quello che arrivava più forte di tutti? Neanche ve lo immaginate, ma proprio potente. A parte Fabio, vabbè Fabio è vicino, ma parlo come la radio la più forte di tutti, è quello che ascoltavo più forte di tutti. No, non lo so, chi è? Gianni Rubroffetta, era la più forte di tutti, più forte anche di Gianni Doppio Room e di cosa. Solo Fabio come... ti sentivo però non fortissimo, Riccardo, sentivo a Capri, con un'antennina piccolina, 20 cm di antenna, una radiolina di quelle tascabili. La sentivo a tutti quanti, però Gianni Rubroffetta era una potenza. E come arriva dalla parte bassa e arriva forte? E infatti anche Tonino Cavazzacchi, tutti sentivo, anche a Capri 2 sentivo, Gianni Doppio Room a te, però quello che arrivava più forte di tutti era Gianni Rubroffetta, proprio forte, va fortissima la radio, chiara e bella. Stanotte attacco l'Alfa Lima e dimmi chi arriva forte. Allora, di segnale non è vero, perché è una radiolina piccolina, però io parlo come qualità di radio, di forza di radio, era la migliore di tutti, è quella di corso. Infatti mi ha impressionato, non mi immaginavo che arrivasse, uscendo con 4 watt. Va, e buh. Anche te e tu arrivavi tutti, però quello in particolare lui, poi il secondo era Fabio. Poi c'era anche Tonino, si faceva ascoltare, però quello che proprio, anche se la mette vigilata, con l'antenna girata di fianco, che arrivava più forte di tutti era lui. Va bene. Natalina è scomparsa. stavo chiamando e non c'è più. Alfa Luno. Natale dell'Alfa 1, lo sai? Sì, lo so. E alcuni mi hanno chiesto se Babbo ha copiato il nome natalino. Babbo non ha copiato niente a nessuno, non sapeva neanche l'esistenza di Alfa 1. Eh certo, ci mancherebbe. Poi Alfa 21 di più di Alfa 1, diglielo a chi te lo dice. No, Babbo di più, 21, quello è uno che è il numero 1, che è iniziato da 1, noi siamo arrivati già a 21. E infatti, se non ho sentito male c'è anche Marco. No, ma Marco forse dice il fuso orario, si sta alzando. Marco ci sei. Ricordati che ci sono 6 ore di differenza dove il QTH di coso, di Marco. Già lo so, adesso. Però l'ho sentito prima, cos'era, le 5 di mattina, mi ha detto, sì, stava alzando, però pensavo che l'aveva già preso il caffè. E Marco, no, sono ancora, sta andando al lavoro di mattina lì. Alle 5 di mattina tu eri già in baracchino? No! Alle 5 di mattina c'era Marco che stava parlando al baracchino. E con chi stava parlando alle 5 di mattina? Lui era alle 5... Ah, il fuso orario diverso! Ah, ho capito, scusami tanto. Natalì non gli ha mangiato il coso, il cagnolino. Pronto? E chi era? Marco, ha detto che mi chiamasse, perciò entro e saluto. Ah, ciao Fabio, no, c'è entrato un po' strano di voce, ho detto, ma sembra qualcuno Saturno, sto pensando a Capri. Anch'io ho pensato la stessa cosa, ma adesso devo sviluppare un dito che ti riconosco subito, tanto ti ho riconosciuto già con il portatile, ti riconosco tutte le volte. Sì, Capri, che sono ormai stato per qualcuno, non è che si rialza, io tengo un po' come ho rimesso il microfono, un po' come ho rimesso il mic gain, siccome mi avete chiamato, io sono entrato. Ok, buongiorno signor Master. Comunque le volevo chiedere, cosa pensa di questa modulazione? La modulazione non va tutto male, ma su un apparato che si un po' basso, quanti watt stai usando? 5 watt sto usando. E di solito quanto li usi? Non posso dirlo qui. Un kilowatt c'ha, poi quando si attacca la gabbia elettrica arriva anche a 3. Ah, kappa. Vabbè, guarda, sull'apparato quello cattivo con i segnali sei un po' fattino. Sulla stazione invece non ne frega niente, lei ti vuole bene, ogni volta l'accetta perché sei simpatico. Brava, non ho ascoltato il tuo commentario perché stavo pensando ad altro. Scusa, e la radio quindi come va? La radio pulita naturale, questa è la tua voce. Benvenuta. Invece il segnale, se volete, sull'apparecchio un po' con quello antipatico si è un po' basso. Sulla stazione invece, alla stazione di sì, un bel simpatico, e ogni volta c'è un bel segnale, così. Bene. Insomma, trafuso e orario, io non posso essere orario, cosa sono, Roberto? Trafuso e orario, un po' uno, un po' dell'altro. Stavo dicendo che Marco a quest'ora lui è ora di alzarsi, lui si sta alzando Marco, perché mi sembra c'ha 6 o 8 ore di differenza, perché lui è dalla costa ovest della Sardegna. Sì, tu fai il sud-est e ritorno, perciò qualche volta il fuso orario è anche cadenzato da mezze ore, eccetera, a seconda della latitudine, della longitudine, anche dell'altezza rispetto alla fossa delle Marianne. E poi riemerge e ogni volta prende il baracchino e sta mangiando. Ehi, arruzzicando sta per arruzzicando qualche cosa. Ieri notte Fabio, quando sono andato via, mi sono andato a dormire, a quel camera, no, a dormire perché mi ha addormentato tardi, prima di prendere sonno, c'avevo quella radiolina piccolina, a parte tu che sei attaccato, vabbè, il segnale tuo, la voce tua era più vicina, però la radio, lo sai chi era che arrivava più forte di tutti, neanche te lo immagini, ma era assoluto, c'era Gianni Doppio Rum, c'era Tonino, c'era Muros, Riccardino, lo sai chi era il più forte, è proprio la radio eccezionale. Gianni Lu Profeta. Cacchio, non sto scherzando, era la radio più forte in assoluto. Tu vabbè, eri forte perché sei vicino, ma con l'antenna piegata, senza neanche aprirla, lui entrava, gli altri nessuno, anche Muros ascoltavo Riccardino, Tonino Cavasacchi usciva forte, però Gianni Lu Profeta era impressionante quanto arriva forte di radio. Sì, Cappa, io avevo una radio spettacolare, io qualche volta lo sentivo basso, invece ieri mi sono accorto che il segnale non è cambiato molto, vabbè, con il rapporto in QRM probabilmente anche quello è importante, però ieri avevo una radio eccezionale, Lu Profeta, rispetto a come lo conosco io. Ma poi la cosa che a me mi colpisce è che lui, se sai dove abita, vabbè, non so esattamente, so la via più o meno la direzione, posso sbagliare di 20 metri, dai, 50 metri, dove sta lui? Lui abita vicino alla stazione, quasi di fronte alla stazione. Come cavolo fa ad arrivare, che deve attraversare tutta la città, che lui è proprio in un fosso rispetto alla mia posizione, ma arriva una bomba con quattro vani. L'antenna perfetta, ecco qua, tutto quello che manca a me. A te come ti arriva lui? Gianni mi arriva basso di segnale, ma la radio ieri, ti ripeto, era meravigliosa, proprio precisa, questo con l'amplificazione chiara, dettagliata, la sentivo profonda, comunque brillante, ma bellissima radio, non ho avuto modo di fargli complimenti, però caspita, per come lo sentivo, per come l'ho sentito le ultime volte, non lo so cosa ha fatto, forse ha cambiato il microfono, ha toccato qualche regolazione, una bomba, veramente. E considerando che lui ha solo 4 watt, c'è gente che lo utilizza 10 volte, anche no, 100 volte no, ma almeno 50 volte è tanto, 40 volte è tanto sì, cioè c'è qualcuno che ne usa 40 volte la sua potenza, eppure nessuno riesce ad arrivare con quella potenza così, così forte dalle mie parti. Sì, vabbè, nessuno si ricorda che il modulatore deve andare di pari passo con l'amplificatore, cioè se è un amplificatore che permette certe cose, devi avere un modulatore che ne permette certe altre, se ne devi stare un paio di giornate accordando qualcuno che ti ascolta, il problema di sollecitazione e hai un apparato che può uscire con 100 watt, con 120 watt, con 200 watt, ma anche con 40 watt, questa cosa vale. E parti con alcuni apparecchi, tipo una K, un K prendi e più o meno si aggiusta quasi di suo, qualche compressore che ha anche un limitatore, dicendo. Però se hai un baracchino e ci metti un lineare, devi comunque riuscire ad accordare. Ehi, ho sentito un break, avanti che era. Sì, ciao Claudio, ben sentito, in compagnia mia di Fabio, come si chiama? Riccardino. Che apparato sta utilizzando? Sì, ti ascolto bene, anche se devo dire l'altra radio spinge di più, mi piace di più, comunque è chiara anche questa, niente da dire. Ottima, ti sta aiutando con questo. Segnale 9 più 15 spaccato. Ok, ciao. Ma sempre qualche disturbo c'è. Comunque ciao Claudio, ben ascoltato. Sì, comunque sta andando bene. Volevo chiederti se potevi dare anche a me un rapporto di radio, perché sto usando un altro apparato. Aspetta, sta con l'Alfa Lima, mica ti stia soffitto. Mi ha soffitto, chioro, salutoni, ben sentito, e quello che ha detto Riccardino per quanto riguarda la radio lo posso dire io a te. No, hai un SGN, puoi alzare appena. Hai sentito qua? Non puoi darti qualche cosa, te lo prendo. Se c'è possibilità di alzare la radio. Più forte ma rimbombante. Sì, ha migliorato come intensità, ma non come chiarezza. Prova a parlare, fa un passaggio. C Sì, un po' meglio, ma abbastanza meglio, diciamo, chiara, 5 di radio, va bene anche 5 prima, però in certi momenti erano un po' gracchiate. Chiedo conferma a Fabio che lui magari si ascoltava prima un po' più basso. Positivo, positivo, anche io adesso cerco di alzare un po' la radio, quindi magari riesco anche a farmi sentire la chioro, forse così va meglio. Sì, adesso la radio si è alzata e riesco a sentirlo meglio, è rimasta un po' bassa per quanto mi riguarda, perché lo dicevo così, però si capisce che la modulazione adesso è centrata. L'hai ascoltato, Claudio? Non so, Fabio, ieri avevo un altro apparato, ieri no. No, ragazzi, può sempre questo, però si diceva, infatti, qualcuno ha fatto smanettare la radio, esatto. Adesso devo riattrarla, il microfono, probabilmente adesso Chiodo riesce ad ascoltarmi. Chiodo, dammi conferma, mi ascolti? Avete il break, eh. Come va adesso? Che giorno, come potete se sta andando meglio in piazza? Una domanda a Claudio, ieri notte io sono andato via, ti ricordi? Tu hai tenuto sempre lo stesso apparato, la stessa potenza o ci sei aiutato? Se eravate attaccati o eravate neutri? Questa domanda te la sto facendo perché io